Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi parliamo di un tema che interessa un po' tutte le fasce di età, anche se è diretto e rivolto ai più giovani, perché parliamo alle persone tra i 18 e i 28 anni, ossia il servizio civile universale. Abbiamo con noi Laura Milani, che è responsabile servizio civile della comunità Papa Giovanni XXIII. Bentrovata. E bentrovati, grazie mille per l'invito. Il servizio civile è l'opportunità per giovani tra i 18 e i 28 anni di fare un'esperienza di servizio per le loro comunità, per i territori, impegnandosi all'interno di progetti che sono promossi da vari enti e in vari ambiti. Dura 12 mesi, impegna 25 ore settimanali e prevede anche un rimborso di 507 euro. E è un'esperienza quindi per gli altri di servizio, ma anche per se stessi, no? Perché permette di imparare facendo, di acquisire delle competenze che sono spendibili anche nei progetti futuri, e però permette di imparare, ecco, sporcandosi le mani. A voi che cosa potreste offrire come possibilità di servizio civile universale? Allora, noi su Bologna proponiamo dei progetti in vari ambiti, con lo stile che è della Papa Giovanni, quindi quello che noi definiamo condivisione diretta, cioè sono esperienze prima di tutto di prossimità alle persone fragili, ma anche a delle problematiche che riguardano i diritti umani e la giustizia sociale. Quindi abbiamo un progetto con le donne vittime di tratta, quindi a sostegno e accompagnamento alle donne vittime di tratta, con una sede a Bologna, e un progetto invece di educazione e di animazione di comunità, che è rivolto a giovani e minori, sia accolti in alcune case famiglie tra Bologna e alcune sedi a Ozzano dell'Emilia, ma anche, diciamo, di supporto ad attività di doposcuola nei territori. Un progetto per persone senza fissa dimora, con una sede a Castelmaggiore, che prevede anche unità di strada, quindi incontri di prossimità, no, con persone che vivono ai margini. Questo è un progetto che ha una particolarità, perché i volontari che partecipano al progetto hanno la possibilità di svolgere anche 2 mesi nella nostra sede di Atene. Un progetto diciamo di inclusione rivolto a persone adulti disabili, con sedi, una sede a Ferrara, ma anche a Ozzano dell'Emilia, coinvolgendo i nostri centri diurni, quindi anche realtà, ecco, tipologie di sedi e realtà diverse, e un progetto sulle tossicodipendenze con una comunità terapeutica a Castelmaggiore e un'altra invece a Ferrara. Anche questa ha la particolarità di permettere un paio di mesi, questa volta in una comunità terapeutica in Croazia. Queste sono le realtà sul territorio, diciamo, i progetti in Italia, e dopodiché invece abbiamo anche una serie di progetti all'estero. Abbiamo un progetto in Zambia, su attività, diciamo, legate sia alla malnutrizione, ma anche a, diciamo, percorsi educativi rivolti a minori vulnerabili e a persone disabili. Un progetto che coinvolge, diciamo, che si sviluppa in Europa, in Germania e Paesi Bassi, soprattutto, diciamo, di sostegno e inclusione verso persone adulte in situazioni di disagio. E un progetto nell'est Europa che coinvolge l'Albania e Romania. Di solito sono territori che hanno poco appeal, ma in realtà le progettualità sono molto interessanti. In Albania, con donne in situazioni di disagio o vittime di violenza, in Romania invece ci sono diverse progettualità sia con adulti sia con minori, eccetera eccetera. E un progetto, diciamo, diverse progettualità in America Latina, in Brasile, sia con i minori sia con persone tossicodipendenti, in Cile, in molti ambiti. Ecco, il Cile è uno dei progetti che è più eterogeneo, quindi va sia dal supporto al disagio adulto, ma anche attività di doposcuola per minori in situazioni, insomma, di vulnerabilità, piuttosto che attività con la popolazione mapuche nel sud del Cile, dei progetti in Bolivia e in Argentina, con un taglio legato anche qui alle dipendenze, ma anche ad attività con minori a scopo, diciamo, di prevenzione, e dei progetti, un progetto in Kenya con, diciamo, rivolto a ragazzi che vengono dalla strada, quindi attività, diciamo, educative, supporto, di sostegno, e anche attività con donne vittime di tratta. Quindi questo per fare proprio una carrellata veloce su tutti i progetti che noi abbiamo all'estero. E per saperne di più, come è possibile trovarvi e avere maggiori informazioni nel dettaglio e effettivamente anche poi iscriversi? Il bando scade il 18 febbraio alle 14, quindi il consiglio è, per chi è interessato, di contattarci prima possibile, e nel nostro caso, per saperne di più, basta andare sul nostro sito serviziocivile.apg23.org. Abbiamo anche diciamo, un numero WhatsApp che permette, insomma, di in tempo quasi reale di offrire informazioni, che è 340-224-1702, e abbiamo anche organizzato degli incontri informativi. E in particolare, per chi è interessato ai nostri progetti in Italia, abbiamo un incontro il 22 gennaio alle 17, un webinar. Sul nostro sito è possibile iscriversi al webinar e si trovano anche i riferimenti dei nostri, diciamo, referenti sul territorio di Bologna, quindi è possibile chiamarci e anche visitare, incontrare le strutture che sono a progetto. E per chi invece è interessato all'estero, il 21 gennaio alle 17 c'è un altro webinar, e il 6 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 c'è un incontro in presenza nella sede, diciamo, della parrocchia di Sant'Antonio di Savera in via Massarenti, proprio a Bologna. Grazie mille Laura, direi che, insomma, le informazioni le abbiamo, il modo per approfondire anche. Invitiamo, insomma, chi fosse interessato veramente a partecipare a questa esperienza, che oltre a essere anche un cespite, perché no, perché abbiamo parlato di 500 euro circa al mese, però anche proprio di viaggiare, di conoscere, di rendersi utili, di dare e di ricevere. Grazie ancora Laura. Grazie a voi per l'invito.